Eccoci dalla piazza di Torino, pronto, ci senti? Sì, vi sento, ciao a tutti e tutte. Ciao, buongiorno. E raccontaci la piazza, raccontaci insomma quello che vedi, il clima, se il corteo è partito, insomma, vedi tu. Allora, il corteo è appena partito, in realtà si sta disponendo per far disporre gli spezzoni, insomma. Quindi è sulla via che parte dalla piazza in cui c'è il concentramento. E il corteo è molto partecipato, non vi so dare dei numeri perché, come vi dicevo prima, si sta disponendo in questo momento. Quindi magari ci sentiamo più tardi, però è un corteo molto partecipato, almeno per quello che posso vedere io ora che sto camminando verso la testa, verso la testa del corteo. Ci sono tante bandiere no TAV, ovviamente i comitati no TAV, i compagni rappresentanti e spezzoni di compagni e compagne da tutta Italia. I pullman, alcuni prima del corteo hanno provato a fermarli, insomma, a fare un po' di storie, però è tutto tranquillo. I pullman di Roma sono arrivati a Torino, stanno raggiungendo il corteo. Questo anche per quanto riguarda i treni invece che sono partiti da Milano, sono arrivati anche i treni a destinazione. Il corteo sta partendo e sta cominciando il suo percorso dopo essersi disposto, e adesso siamo arrivati alla testa. Ci stanno facendo vari interventi dal camion, ma la cosa bella, insomma, del corteo è che si canta tantissimo, cori e vari appunto canzoni per chiedere la libertà dei quattro arrestati che stanno dentro. Questo vi posso dire almeno per adesso. Senti, no, se hai modo ci puoi raccontare, approfittiamo del fatto che siamo riusciti a prendere linea con te, ma ci puoi raccontare anche un po' qual è la composizione? Dicevi diversi spezzoni un po' da tutta Italia. Scusa, non ti sento, viene la voce. Ci dicevi diversi spezzoni da tutta Italia nella composizione del corteo. Sì. Ce la puoi un po' raccontare, se hai modo di vedere, insomma, i vari striscioni, eccetera? Guarda, all'inizio c'è ovviamente tutti i valligiani con lo spezzone iniziale, e dopodiché ci sono vari striscioni che appunto dico quello che è subito dietro di me, Chiara Mattia, Claudio e Niccolò. Liberi tutti, ed è appunto quasi, diciamo, all'inizio del corteo, dopo lo striscione iniziale. Poi ci sono anche delle bandiere con scritto tutte uguali, con scritto liberi subito, sono nello spezzone, diciamo, di un sacco di bambini. Adesso vi dico chi sono: libero dissenso, c'è scritto su questo striscione. Ci sono molte mamme e molti bambini che tengono lo striscione di apertura di questo spezzone qua. Dopo il corteo continua e non riesco a vedere altri striscioni, ma la composizione per il corteo è molto mista, grandi, bambini, ragazzi, ci sono tutti, penso che ci siano proprio tutti quanti oggi al corteo. È proprio penso sia un bel corteo. Oltre appunto alle bandiere no TAV, ci sono anche sbizzarriti a fare delle grafiche, delle bandiere nuove. Senti, che clima c'è? Per esempio, i negozi sono aperti, sono chiusi, la presenza della polizia? Guarda, in piazza prima, la piazza del concentramento, i negozi erano aperti e alcuni esponevano la bandiera no TAV, quindi insomma chiaramente appoggiano la manifestazione. Mentre ovviamente davanti al tribunale, che è la piazza in cui ci siamo concentrati, c'era un dispiegamento di forze dell'ordine veramente esagerato, oltre che di uomini più che altro di mezzi, c'era una ventina di mezzi tra blindati e mezzi corazzati, quindi abbastanza particolare davanti al tribunale, però il corteo comunque è partito tranquillamente. Davanti a noi, davanti al corteo, ci sono tre blindati che ci seguono, c'è tanta polizia, questo sì, poi quando ci seguono pure i compagni di Torino nei giorni scorsi, che hanno anche messo in campo un po' di allarmismo nei giorni precedenti al corteo, dicendo, appunto quantificando quelli che potevano essere i problemi e il livello di allarme di questa manifestazione. Però ovviamente questo allarismo, questa pre-inizzazione, diciamo, non è servita a non far partecipare la giornata manifestazione, perché c'è veramente tanta gente. Bene, bene, quindi se non vuoi aggiungere altro ora, non so, sentiamo delle voci in sottofondo, ce le puoi far sentire? Vi posso ancora capire quanti siamo, ma siamo tantissimi, giunti da tutte le parti d'Italia per solidarizzare a questa. Beh, come avete sentito, insomma, è caduta la linea, proveremo, insomma, a rimetterci in corrispondenza.